GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cittadinanze facili a Moggio Udinese, 6 denunce dei carabinieri in un'inchiesta della procura di Udine, coinvolti anche ex amministratori e dipendenti comunali. Badanti irregolari, anche Pordenone coinvolta in un'indagine partita da Modena, 13 arresti. Sono quelle dell'azienda sanitaria Giuliana Isontina le ambulanze più veloci in Italia, le risposte in 12 minuti secondo i dati Agenas. Lavori sugli argini delle zone flagellate dal maltempo della scorsa settimana, già impiegati 600.000 euro. Trieste, come sarà la nuova Piazza Goldoni, via il muro che la divide, più luci e telecamere, un anno di lavori. Dialoghi scolastici a Pordenone, il progetto pilota contro l'estremismo e la violenza tra i giovani. Luca da Prato, campione per caso, intervista con il nuotatore paralimpico di Medea, arrivato al titolo mondiale. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettigi. In apertura l'inchiesta della Procura di Udine sulle cittadinanze facili a Moggio Udinese. 6 persone sono state denunciate dai carabinieri per aver agevolato in maniera indebita, intascando anche ingenti somme di denaro, l'acquisizione dello status da parte di oltre 80 stranieri, tutti brasiliani, in base a residenze fittizie. Ascoltiamo. Due case all'apparenza anonime a due passi dal municipio di Moggio Udinese. Dal 2018 al 2024 sarebbero servite 84 persone di nazionalità brasiliana per ottenere illecitamente, in pochi mesi, la cittadinanza italiana. Denunciate 6 persone, tra cui l'ex sindaco Giorgio Filaferro ed ex dipendenti comunali per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è tuttora in corso, è durata quasi un anno ed è stata condotta dai carabinieri della stazione di Moggio Udinese, coordinata dal sostituto procuratore Giorgio Melillo. Agli 84 brasiliani sarebbe stata concessa facilmente la residenza anagrafica senza aver mai realmente abitato a Moggio, accorciando così di molto l'iter di acquisizione della cittadinanza. Passando dai consolati ci vogliono anni perché c'è meno disponibilità di appuntamento. Ottenuto l'ambito passaporto, i soggetti cestinavano i certificati elettorali inviati dal comune e si ritrasferivano la propria residenza all'estero, non solo in Sud America ma anche in Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Israele. Due gli intermediari, una 61enne di origine albanese e un 54enne brasiliano, residenti entrambi nel Vicentino, incensurati. Avrebbero fatto da intermediari con l'ufficio anagrafe del comune di Moggio Udinese, con il quale avrebbero intrattenuto rapporti costanti e confidenziali, fornendo falsi contratti d'affitto, sempre trimestrali, organizzando brevi viaggi in Italia, anche solo d'un paio di giorni, con l'unico fine di documentare formalmente la presenza sul territorio. Con un sovrapprezzo si poteva far tutto anche senza mai recarsi in Italia. 6.000 euro per ogni pratica il guadagno dei due mediatori, per un giro d'affari di 500.000 euro versato direttamente su conti esteri. A Moggio Udinese fino alla primavera 2024 non c'era polizia locale, quindi i controlli venivano effettuati dagli stessi ex dipendenti comunali. Nell'inchiesta non è coinvolta l'attuale amministrazione di Moggio Udinese. Abbiamo fornito la massima collaborazione ai carabinieri. Mesi fa sono venuti a fare un'acquisizione documentale e sapevamo che c'erano indagini in corso. Attendiamo anche noi l'esito, dice la sindaca Martina Gallizia. Moggio Udinese, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha coinvolto anche la provincia di Pordenone l'indagine della procura di Modena che ieri ha portato a 45 perquisizioni e all'arresto di 13 donne di nazionalità georgiana accusate dei reati di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale, possesso di documenti di identificazione falsi e falsità materiale. Ad una 53enne residente nel centro di Modena, dove abitavano temporaneamente le connazionali arrivate in Italia, è contestato anche il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Secondo le indagini, le donne si erano presentate all'Agenzia delle Entrate per chiedere un codice fiscale esibendo documenti lituani poi risultati contraffatti. 38 di loro erano riuscite a ottenere un codice fiscale attribuito a identità false e dopo aver così regolarizzato la loro posizione erano state assunte come badanti di anziani nelle province di Reggio Emilia, Mantova, Firenze, Pistoia e appunto Pordenone. Beneficiando di ammortizzatori sociali, oltre ad aver richiesto in questo caso e ottenuto da istituti di credito finanziamenti di fatto mai estinti. Le 13 arrestate sono state trovate in possesso di documenti falsi, circostanza che prevede l'arresto obbligatorio, e poi liberate per insussistenza delle esigenze cautelari. Ora bisognerà valutare se ci sono i presupposti per la loro regolarizzazione e permanenza sul territorio nazionale. L'azienda sanitaria Giuliano Esontina è la migliore a livello nazionale per i tempi di intervento delle ambulanze, in media 12 minuti. A Sugi, secondo il rapporto di Agenas, l'agenzia nazionale che valuta il servizio sanitario, sulle performance di ASL e ospedali, precede in questa classifica le aziende sanitarie di Piacenza, Chiavari, Reggio Emilia, Parma e Genova, tutte con 13 minuti. Per le linee guida il target nazionale è di 18 minuti. Su tutte le 110 aziende sanitarie italiane, ben 41 hanno tempi superiori ai 20 minuti di attesa per un'ambulanza. La maglia nera è dell'ASL di Vibo Valentia, con una media di 35 minuti. Sulla mezz'ora anche le altre aziende calabresi. Oristano è a 26 minuti, Messina a 25. Le ultime piogge non hanno creato criticità particolari nei territori colpiti dall'evento alluvionale del 17 novembre. Lo rilevano i tecnici della regione ancora al lavoro negli interventi di ripristino degli argini e danneggiati dalla piena dei corsi d'acqua esondati, già impiegati 600.000 euro. Gli interventi più urgenti per riparare i danni della disastrosa alluvione agli argini del torrente Iudrio sono già pressoché ultimati, fanno sapere i tecnici della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo della Regione. A monte del corso d'acqua, nella zona di Vencoddo, Legna del Coglio, e più a valle, verso Medea e Chiopris, i tratti che sono stati danneggiati e sui quali si sta intervenendo senza sosta già dal giorno dell'esondazione, già impiegati finora 600.000 euro, altrettanti si prevede di impegnarne per i lavori in corso, che continueranno nei prossimi giorni per sanare anche i danni rilevanti alla strada Argine, vicino alla confluenza dello Iudrio col suo affluente corno tra Chiopris e Romans di Sonzo. Da un primo sopralluogo gli argini del torrente Versa appaiono invece rimasti integri. Con l'autorità di bacino, i tecnici regionali a breve ricostruiranno quanto è accaduto. Sulla scorta dei dati raccolti sul campo e dei modelli idrologici e idraulici si punta a definire nuovi studi di scenari possibili per poter programmare interventi strutturali per mitigare eventi eccezionali analoghi in futuro. Da una prima valutazione a determinare gli allagamenti del territorio è stata una concatenazione di diversi elementi: la piena simultanea dello Iudrio e del Versa, la lama d'acqua di ruscellamento che si è creata sui terreni e sulle zone abitate dell'area e l'effetto delle piogge intense e concentrate sulle infrastrutture. Tra gli interventi strutturali ipotizzati a medio termine, il rinforzo degli argini dello Iudrio e del Versa e la definizione di aree di espansione esterne ai loro alvei per laminare i picchi di piena, sull'esempio del recente bacino di laminazione del Corno che durante la piena dei giorni scorsi ha invasato circa 350.000 metri cubi d'acqua. Si tratta sempre di opere di mitigazione del rischio, rimarcano i tecnici, rammentando che la sicurezza totale non esiste e che nelle zone allagabili fondamentale resta la prevenzione col sistema di previsione e allertamento della Protezione Civile. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico investirà nei prossimi anni circa 370 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione dei ponti e cavalcavia più datati. Lo riporta l'aggiornamento del piano finanziario trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di manufatti in gran parte risalenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Udine nel 1966, già oggi costantemente monitorati dalla concessionaria autostradale. Le tre opere che hanno la priorità nella ricostruzione sono il cavalcavia del nodo di Villesse, posto tra le autostrade A4 Trieste-Venezia e A34 Villesse-Gorizia, il cavalcavia dello svincolo di Radipuglia e il cavalcavia della strada regionale 71 Palmanova-Felettis. Per quanto riguarda i due cavalcavia di Villesse e Radipuglia, si prevede la realizzazione in entrambi i casi di un nuovo impalcato che sarà posizionato in sede, senza quindi la necessità di acquisire nuove aree, e che sarà più alto dell'attuale, fino a 5,15 m di altezza libera sull'autostrada strada, appoggiante su quattro nuove pile indipendenti dalle sottostrutture esistenti. Questo consentirà ai cavalcavia attuali di restare in funzione fino al termine dei lavori. Medesima procedura realizzativa riguarderà i cavalcavia di Felettis. Si è dimesso questa mattina a Udine il consigliere comunale Matteo Mansi, che deteneva una delega assegnatagli dal sindaco De Toni, quella relativa allo studio della riqualificazione della tratta ferroviaria urbana Udine-Tarvisio. Mansi ha comunicato di non poter adempiere all'incarico attribuitogli e con le finalità adesso connaturate. Comprendo le ragioni della scelta e la risposta del sindaco De Toni, il nostro obiettivo è comune, ovvero il superamento della cesura cittadina dovuta al passaggio della tratta ferroviaria. Rimangono diverse le valutazioni dei percorsi per raggiungerlo. Continueremo a lavorare per questo a proposito con strumenti e modalità distinte. A Trieste, Piazza Goldoni sarà riqualificata in funzione di sicurezza e accessibilità. Sarà abbattuto il muro che attualmente sorge su un lato della zona pedonale e verranno tolte le panchine, mentre saranno installati i nuovi punti luce e videocamere. I lavori da 1 milione di euro, finanziati dal bando regionale sulla sicurezza, dureranno un anno. La centralissima Piazza Goldoni, che si trova in mezzo a un crocevia di arterie cittadine importanti, sarà riqualificata in chiave sicurezza con un sistema di videosorveglianza con 6 videocamere ad altissima risoluzione e saranno tolti i cosiddetti punti ciechi. Sarà quindi abbattuto il muro che divide la piazza dalla strada che dà su una nota catena di fast food. Con la riqualificazione si procederà anche all'abbattimento delle barriere architettoniche. Verranno quindi aperti 3 varchi nella cosiddetta fontana, che non avrà più acqua. Qui diventerà l'appoggio per installare 6 proiettori per aumentare l'illuminazione dell'area, che avrà ulteriori 5 punti luce. Verranno risistemate e spostate alcune fermate degli autobus in accordo con Trieste Trasporti e verrà eliminato l'attraversamento pedonale all'inizio di Via Pellico. Una parte consistente dell'intervento sarà anche nei sottoservizi, ovvero portare i cavi elettrici e di fibra ottica agli 11 nuovi punti di illuminazione al sistema di videosorveglianza. Il valore della riqualificazione di 1.050.000 euro, finanziati dal bando regionale per la sicurezza, lo stesso che finanzia anche la riqualificazione di Borgo Stazione a Udine. Il progetto esecutivo è stato approvato e la giunta di piazza con l'assessore Babuder conta di pubblicare il bando per l'esecuzione dei lavori la settimana prossima, con l'aggiudicazione entro gennaio. I lavori, della durata di un anno, potrebbero partire in primavera. Trieste, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati ufficialmente consegnati in comune di Cavasso Nuovo i lavori per l'intervento di ampliamento del cosiddetto bici grill, che si trova lungo il percorso ciclabile e ciclopedonale FVG3 Pedemontana, un punto di riferimento per ciclisti, escursionisti e famiglie, grazie anche alla presenza di impianti sportivi e di un'area verde attrezzata. L'opera prevede un investimento complessivo di oltre 400.000 euro finanziati con un contributo della regione e la durata prevista dei lavori è di 250 giorni con conclusione programmata a fine maggio 2026. Gli interventi previsti mirano ad ampliare gli spazi disponibili, migliorare la funzionalità della struttura, incrementare i servizi offerti e potenziare la capacità ricettiva. 12.42, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 11. A Trieste 8 gradi, vento da est nord-est bora a 64 km orari, le raffiche hanno raggiunto i 96 orari. A Gorizia e a Udine 9 gradi e 5 decimi, a Pordenone 9. Nell'area montana a Tolmezzo 4, a Tarvisio 0, a Sappada meno 4, sul Piancavallo 3 gradi e mezzo positivi, a Forni di Sopra 3, sullo Zoncolan meno 4, sull'Ussari 5 gradi e 5 decimi sotto zero, a Grado e a Lignano 9. Le previsioni per oggi pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso con bora da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, probabilmente anche forte a Trieste con raffiche intorno a 100 km orari. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con bora da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, probabilmente anche forte a Trieste di notte e al mattino, con raffiche intorno ai 100 km orari. Gelate notturne in montagna e probabilmente anche in pianura, specie nelle zone dove non sarà presente vento. Una regione in cui cresce l'export è con un dato di partecipanti ad associazioni di volontariato superiore alla media nazionale. È il quadro del Friuli Venezia Giulia che emerge dal report statistico della regione. Crescita del PIL in Friuli Venezia Giulia modesta, più 0,3% quest'anno e più 0,7% nel 2026, quando supererà i 48 miliardi di euro. Questa è la previsione del prodotto interno lordo regionale, che nel 2024 ha sfiorato i 46 miliardi. I consumi delle famiglie aumenteranno con un'accelerazione dal 2026, mentre il reddito disponibile salirà dell'1,5%. Nel 2025 gli investimenti sono previsti in crescita del 2,7%, le esportazioni del 3,3%. Il report della regione indica la popolazione residente di poco sotto il 1.200.000 abitanti, 580.000 le famiglie. Le coppie con figli rappresentano il 41%, mentre le coppie senza figli sono 131.000. Il 38,5%. Le famiglie monogenitoriali sono il 20%, per la maggior parte composte da madri sole con figli. Nel 2024 i giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano frequentano corsi di formazione tra i 15 e i 29 anni sono 17.500, il 10,6% della popolazione di pari età, 15,2% è il dato italiano. I dati sulla partecipazione sociale registrano un ritorno ai livelli di coinvolgimento in attività di volontariato pre-Covid, 12% più alto della media nazionale di quasi 4 punti percentuali. Il dato per genere evidenzia che la partecipazione in attività di volontariato per le donne del Friuli Venezia Giulia è la seconda più alta in Italia dopo quella del Trentino Alto Adige. Tra i dati che descrivono i fattori di rischio per la vita sana, il tasso di sedentarietà colloca il Friuli Venezia Giulia in seconda posizione tra le regioni più virtuose a livello nazionale, oltre il 19% contro il 32,7% italiano. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Primo report di sostenibilità per Codroipo che, secondo i dati analizzati dalla rete dei comuni sostenibili, si distingue per quanto riguarda l'illuminazione pubblica a LED, il risparmio energetico degli edifici comunali, i posti negli asili nido, l'utilizzo al 100% dei criteri ambientali minimi negli acquisti comunali e il servizio di bike sharing a rappresentanza giovanile. Con oltre il 76%, Codroipo è tra i comuni con alta percentuale di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. Tra i dati quantitativi sono stati segnalati anche il superamento dell'82% dell'uso di cibi bio nelle mense scolastiche comunali, la maggior diffusione delle casette dell'acqua e delle fontanelle, la crescita della comunicazione via social, l'incremento del verde urbano per abitante e l'aumento della raccolta differenziata dei rifiuti. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha portato a Pordenone il progetto pilota Dialoghi scolastici sulla prevenzione della radicalizzazione giovanile e dell'estremismo violento. I lavori questa mattina all'Istituto Don Bosco. Studenti e studentesse delle scuole medie, insegnanti, forze dell'ordine e rappresentanti istituzionali si sono confrontati su temi cruciali per la sicurezza digitale. Uso consapevole dei dispositivi, cyberbullismo, linguaggio d'odio, proselitismo online. Parte dall'Istituto Don Bosco di Pordenone il progetto pilota internazionale Dialoghi scolastici sulla prevenzione della radicalizzazione giovanile e dell'estremismo violento, promosso dall'onorevole Emanuele Lopez, perfido membro della delegazione italiana OSCE e vicepresidente del comitato antiterrorismo. Lo perfido. Parte da qua perché vogliamo sviluppare tramite il dialogo con le scuole una serie di interventi per fare in modo che ci possa essere un utilizzo consapevole da parte dei ragazzi, da parte degli educatori e dei genitori, ma soprattutto anche del legislatore. L'OSCE dà supporto ai parlamenti nazionali per far sì che ci possano essere provvedimenti armonici per fare in modo che possano essere veramente incisivi su una materia delicatissima qual è l'utilizzo consapevole dei social. Giuseppe Solimene, questore di Pordenone. Credo che questa sia tutto sommato una provincia tranquilla da questo punto di vista, anche in base a quelli che sono i dati della polizia postale. Però c'è da stare sempre molto attenti e la giornata di oggi testimonia come l'attività di prevenzione sia fondamentale. Cecilia Polizzi, fondatrice di Next Wave Center di New York. Molto importante per noi che loro infatti possano riuscire a comprendere quali sono i meccanismi che a livello digitale cercano di attrarre la loro attenzione. Spesso si tratta di contenuti dannosi o di messaggi negativi che i giovani non hanno purtroppo la capacità di riuscire ad interpretare nella maniera corretta o di riuscire a diventare più resilienti e quindi a contrastarli e di non accettarli immediatamente, ma di riuscire a creare una sorta di filtraggio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni libri di cui si parla oggi. Il 7 gennaio 1992 un elicottero italiano in missione disarmata in Jugoslavia venne abbattuto da un MiG dell'Armata Federale, provocando la morte di 5 osservatori, una vicenda che presenta ancora aspetti irrisolti e ritrosie geopolitiche, di cui si occupa ora un libro curato da Livio Ciancarella che ha raccolto le voci dei sopravvissuti. I primi caduti dell'Unione Europea sarà presentato oggi alla sede dell'Accademia Città di Udine in via Anton Lazzaro Moro, alle 16. Il volto meno conosciuto della resistenza, quello di chi, pur senza imbracciare le armi, combatte per salvare principi di convivenza, umanità e libertà. Lo racconta la storica dell'arte Raffaella Carnielutti nel volume L'altra guerra, la presentazione alle 18 al Teatro Nuovo di Udine. 14 racconti per tracciare un ritratto con tinte anche un po' ironiche degli abitanti della Valle dello Iudrio. Li ha scritti Barbara Pascoli, che presenterà il volume Radio Iudrio, vivere dentro la frontiera, a Gradisca di Zonzo alle 18 a Casa Maccari. Il giornalista e fotografo Roberto Meroi presenterà oggi il suo ultimo libro dal titolo Sguardi sul mondo alle 18 a Palazzo Antonini Stringer a Udine. Parte oggi l'undicesima edizione di Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata, con un articolato programma di incontri e concerti. A dare il via alla rassegna un appuntamento con la letteratura. Alle 18 lo spazio Bottega di Udine in via Pardamano ospiterà un dialogo in videoconferenza con uno dei più importanti scrittori galiziani contemporanei, Suso de Toro. Ma per una panoramica del programma abbiamo sentito il curatore della parte musicale del festival, Alessio Vellischig. Quest'anno Suns si sviluppa nell'arco di una settimana, da venerdì il primo appuntamento musicale, diciamo, con più di un gruppo, dove troveremo il nostro Claudio Banelli affiancato da un artista dei Paesi Baschi, Maddi, e una band dal Galles che sono gli Alfa, che si ripresenteranno entrambi, Alfa e Maddi, anche il giorno dopo a Cormons con l'apertura del nostro Alvise Nodale. Poi a seguire la prossima settimana andremo al cuore degli appuntamenti per quanto riguarda la musica, il 5 all'Ottagono di Codroipo, dove si esibirà già una selezione dei concorrenti del concorso della sera successiva, che sarà ovviamente il momento apicale al Giovanni da Udine, dove troveremo tutti i nostri artisti sia internazionali che locali. Il festival comincerà oggi comunque con un appuntamento a carattere culturale. Di che cosa si tratta? Avremo questa presentazione e videoconferenza con lo scrittore Suso de Toro. Sarà un'occasione per formarci e per incontrare questo grande autore nello spazio della Bottega Errante alle 18 qui a Udine. Poi ci sarà invece il 29 novembre la presentazione del libro in friulano con Seis Par Viage Interstellars, che si terrà invece alle librerie Coop, sempre qui a Udine alle 17.30. Qual è l'attenzione del pubblico per un festival come questo dedicato alle lingue minoritarie? La presenza è molto, molto forte, lo stiamo già riscontrando in questi primi appuntamenti. Quest'anno infatti abbiamo una selezione di artisti veramente a tutto tondo, di altissimo livello, che attraversano lo spettro delle possibilità sonore in una maniera eclettica a dir poco. Partirà dallo stadio Tegel di Lignano il tour estivo 2027 di Laura Pausini. L'appuntamento è per il 2 giugno, dunque fra un anno e mezzo. I biglietti saranno in vendita da domani online su ticketone.it. Pausini ha annunciato oggi le date della tournée mondiale, che comincerà invece il 27 marzo prossimo da Pamplona in Spagna e farà tappa in quasi tutti i paesi dell'America Latina e nelle principali città degli Stati Uniti, prima di tornare in Europa nei palazzetti delle principali metropoli e sbarcare in Brasile a febbraio 2027. Il concerto di Lignano sarà il primo dell'estate successiva. Al Rossetti di Trieste da stasera andrà in scena Volevo essere Marlon Brando, autobiografia senza reticenze di Alessandro Haber, coproduzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che sarà replicato fino a domenica. Ieri sera era invece in programma il concerto di Tre Star del Musical. Ascoltiamo. Si presentano così sul palco del Politeama Rossetti le tre regine del musical: Carrie Ellis, una delle star indiscusse del West End e di Broadway, che ha sostenuto molti ruoli da protagonista in tutto il mondo; Rachel Tucker, pluripremiata, ha recitato e cantato in tantissimi teatri, le sue performance sono state acclamate dalla critica mondiale; ed Emma Hatton, che con la sua presenza scenica dinamica è stata consacrata come una delle protagoniste femminili più importanti del West End. Per il concerto dal titolo Gravity, le tre star hanno interpretato i brani più celebri di Wicked, alternandoli ad altre canzoni della loro carriera di attrici. Tre voci potentissime, tre grandi star internazionali del musical che hanno in comune l'interpretazione del ruolo di Elfeba o Galinda nell'edizione del West End di Wicked e che hanno ricreato a Trieste l'atmosfera del musical proprio nella settimana in cui esce al cinema la seconda parte del film tratto dal musical di Stephen Schwartz. Trieste, Vaciulti, GR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli di oggi a Trieste al Teatro Bobbio, va in scena Rumori, fuori scena commedia di Michael Frayn per la stagione della Contrada, protagonisti gli attori della Kitchen Company diretti da Massimo Chiesa, repliche fino a domenica. Debutta in prima nazionale a Udine per Teatro Contatto la nuova produzione del Centro Servizi Spettacoli, Il Presidente, scritto da Davide Carnevali, regia di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, che è anche l'interprete principale, al Teatro San Giorgio da stasera a domenica. Chiara Lagani porta in scena Pordenone Maternità per la rassegna La Scena delle Donne all'Auditorium Concordia alle 20.45. Per la musica, al Verdi di Pordenone, il concerto del Tango Quartet capitanato dalla violinista Anna Tifu, mentre a Udine, al Palamostre, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani eseguirà in prima assoluta Ikigai del giovane compositore Giulio Piras alle 20.45. La pagina dello sport, tennis tavolo, strepitosa rimonta di Francesco Trevisan all'esordio nel tabellone del singolare maschile under 15 ai campionati mondiali giovanili che si stanno svolgendo in Romania. Con il punteggio di 4-3 l'atleta goriziano è eliminato nei 32esimi di finale lo statunitense Nurani, che si era trovato in vantaggio di 3-7. Dal quarto parziale, inarrestabile la marcia dell'azzurro, che è risalito fino al 3-3 prima di superare l'avversario per 11-6 nel set decisivo. Ora nei 16esimi di finale affronterà il giapponese Ono. Nei giorni scorsi Trevisan, cresciuto nel Kras di Sgonico e oggi in Sardegna con il Norbello, ha conquistato uno storico argento a squadre con la formazione azzurra, che ha battuto Giappone e Cina prima di venir superata in finale da Taipei. Porterà la fiaccola delle prossime Paralimpiadi invernali dopo essere divenuto un protagonista a livello internazionale del nuoto. L'isontino Luca da Prato si è raccontato questa mattina a Buongiorno Regione. La lista di gare che ha vinto è già lunghissima. Luca da Prato di Medea ha scoperto il nuoto paralimpico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2023. Una passione e un impegno diventati totali e a ottobre ha sostenuto la sua prima gara mondiale a Lima, in Perù. Sono riuscito a ottenere 3 medaglie d'argento, un record nazionale e poi è stata un'emozione unica poter vincere nei 100 metri dorso la medaglia d'oro mondiale. Da Prato ha provato tante diverse attività, dal volo all'immersione subacquea, ma è stato il nuoto a conquistarlo. A novembre del 2024 i medici e l'equipe che mi segue fisiatrica mi ha prescritto la fisioterapia in piscina per poter svolgere le mie terapie e i miei esercizi a gravità ridotta. Da lì ho conosciuto la Gorizia Nuoto e hanno subito visto in me l'atleta che ero, e quindi non la persona che doveva fare degli esercizi in piscina e tutto, ma proprio l'atleta, il professionista che sarei potuto diventare. Il 24 gennaio a Udine, da Prato porterà la fiaccola paralimpica Tedoforo di Milano Cortina 2026. Ho subito pensato, dopo l'incidente, non a quello che mi era venuto a mancare dal punto di vista fisico, ma ero felicissimo perché innanzitutto nel mio incidente con la mia autovettura non avevo la mia famiglia, che ho 2 bambine e una moglie, non erano in macchina con me, e quindi ero subito felicissimo per questo. In più, con l'incidente non ho coinvolto nessun'altra persona. E poi ho sempre guardato con ottimismo e, come ho detto, una frase che ho riportato subito dopo l'incidente: il passato non può essere modificato, il futuro non lo conosciamo, ma è con il presente che possiamo fare la differenza. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Edizione redatta e condotta da Daniele Letti e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico Bruno Montevecchi e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12.58, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.